sono un tipo umanitario, il mio amore è una ragazza con il verme solitario e mangia sempre, mangia tutto, ogni cibo è una sua preda, tranne il mocio vi leda. Il 22 è il suo compleanno e questa data mi tormenta e penso che le regalerò una pelliccia ma di coniglio e con il collo di polenta. Susa, Susa,